nuovo mixer digitale. Un misterioso fruscio sul canale 24. Voci e brandelli di notizie da una radio del domani. Questo è Canale 24. Reportage dal futuro di Maurizio Melis. Come sapete, qui a Canale 24 partiamo ogni volta da una notizia rubata, una misteriosa radio del futuro. Quella di oggi riguarda qualcosa che bene o male abbiamo tutti in tasca. Sentite. Giornata nera per le borse dopo l'annuncio del rialzo del tasso di interesse da parte della Federal Reserve. New York e Londra accusano perdite superiori al 3% e trainano verso il basso tutte le borse europee, tra cui Milano, che tuttavia contiene il ribasso al 2,2%. Stabile il cambio tra euro e dollaro, mentre la valuta europea guadagna l'1% sullo yuan e perde lo 0,8% rispetto alla valuta panafricana, M-Pesa. Crescono, come sempre accade in circostanze analoghe, l'oro e il bitcoin, ennesimo segnale che la storica criptomoneta è ormai considerata a tutti gli effetti oro elettronico. Veniamo ora al mercato delle materie prime. Eccoci di nuovo in studio per riflettere, come avrete capito, sul futuro del denaro. In un libro intitolato The End of Money, la fine del contante, David Wolman spiega come e perché il denaro contante, quello fatto di carta e di moneta sonante, è destinato a sparire. Lo fa con un viaggio in cui incontra alcuni dei protagonisti di questo cambiamento, così come alcuni dei suoi detrattori. Ma quali sono le ragioni per abolire il contante? Ne abbiamo parlato con Geronimo Emili, presidente di Cashless Way, associazione nata per diffondere la cultura digitale dei pagamenti. Sentiamo. Banca d'Italia parla di costo fisiologico, ma anche di costo patologico. Comunque, il costo fisiologico, gli ultimi dati lo danno circa 150 euro a testa per ogni italiano. Questa cifra per la stampa, la distribuzione, la distruzione, lo stoccaggio, il conteggio, eccetera, eccetera, tutte cose che il denaro contante richiede. E poi, come ho detto prima, c'è il costo patologico che è difficilmente numerabile, che insomma è tutto ciò che è evasione, criminalità organizzata. Ecco, quindi c'è questo costo legato al fatto che dobbiamo assicurarci che anche l'ultimo bar tra le montagne abbia le monetine da dare di resto, e questo senz'altro è un costo. E poi ci sono i costi, quelli probabilmente anche più significativi, che sono legati alle attività illegali che hanno bisogno assoluto del contante, senza il quale non riuscirebbero a stare in piedi, comprese le rapine. Ecco, uno non vedremo mai una rapina se non ci fosse il contante da rubare. Infatti anni fa il ministro dell'economia svedese dichiarò pubblicamente che non c'è nessuna ragione né legale né razionale per scegliere il contante anziché la moneta elettronica, né legale né razionale. Questo significa che ovviamente nel momento in cui tu togli il contante da, per esempio, non so, un impianto di distribuzione carburante, non vedrai mai più una rapina oppure un furto al totem di raccolta cash, ecco. In particolare sono le monetine quelle che costa di più gestire, vero? Sono costose. Innanzitutto il conio, sì. Perché una monetina da un centesimo, adesso non mi ricordo, ma costa praticamente tre volte tanto. Coniarla, sì. Ma poi se prendiamo in considerazione, per esempio, il trasporto pubblico locale, no? Il trasporto pubblico locale in Italia vale circa 7 miliardi di fatturato l'anno, autobus, metropolitane, sì, bus extraurbani, eccetera. Metà di questo fatturato... In monetine. Sì. Quindi provate a pensare, non so, le ferrovie, no? Che devono andare nel distributore di Cantù a prendersi le monetine per riportarle poi in banca ogni più volte al giorno. Questi sono dei costi esorbitanti. All'estremo opposto troviamo la banconota da 500 euro, che sicuramente sarà meno costoso gestire, ma che io non ho mai utilizzato in vita mia e la maggior parte delle persone non utilizzano, quindi... A che cosa serve? Innanzitutto diciamo che la più alta concentrazione in Europa di banconote da 500 si registra normalmente vicino San Marino, vicino alla Svizzera e vicino al confine con l'Est, nel Triveneto. È evidente che la banconota da 500 è lo strumento migliore per l'esportazione illegale di valuta. Insomma, eliminare il contante permetterebbe di risparmiare miliardi di euro l'anno di costi legati alla produzione e alla logistica di banconote e monete, e di dare una terribile batosta a rapine, furti, evasione fiscale, riciclaggio, corruzione, falsificazione e vari commerci illeciti. Per queste ragioni vari paesi hanno già imboccato questa strada. Sentiamo la scheda. L'Italia è, con la Grecia, il paese nel quale le transazioni elettroniche rappresentano la quota più bassa in Europa. Appena il 13% del totale, contro una media del 40% e punte che superano il 70%. In molte città della Svezia gli autobus già oggi non accettano pagamenti in contanti e con il rarefarsi della moneta fisica le rapine di banca sono crollate di 7 o 8 volte in pochi anni. In Canada la banca centrale ha smesso di stampare banconote per incoraggiare i pagamenti con carta. In Danimarca il governo ha deciso che dal 2016, ad eccezione di medici, dentisti, negozi di alimentari e pochi altri servizi essenziali, commercianti e imprese avranno diritto per legge di rifiutare pagamenti in monete e banconote di carta o in metallo. Ma se la possibilità di tracciare ogni transazione economica apre scenari inediti nella lotta contro l'illegalità e il crimine, allo stesso tempo implica una perdita di libertà. Karl Ludwig Thiele della Bundesbank ha recentemente criticato proprio la proposta del governo danese affermando che l'abolizione del contante violerebbe la sovranità del consumatore, la libera scelta dei cittadini circa i loro strumenti di pagamento. Inoltre quello che l'esperto di contanti della banca centrale tedesca certo non può dire, ma che è sotto gli occhi di tutti, e che ogni società democratica tollera entro certi limiti l'esercizio di attività che considera disdicevoli e che pure hanno un loro mercato. Il dibattito è aperto, insomma, ma potrebbe essere presto superato dai fatti, considerato che negli ultimi anni, accanto ai sistemi di pagamento elettronici, sono nate anche valute virtuali, criptovalute e valute matematiche destinate a scombinare ulteriormente le carte. Bitcoin, per esempio, è il primo e anche più affermato esempio appunto di moneta matematica senza banca centrale. Lanciata nel 2009 da un anonimo e a tutt'oggi sconosciuto programmatore di software, ha avuto un grande successo. I 14 milioni di bitcoin messi in circolazione dal 2009 hanno oggi un controvalore di 4 miliardi di dollari. L'algoritmo alla base di bitcoin imita il comportamento di un bene scarso come l'oro. In pratica vengono emessi sempre meno bitcoin ogni anno e c'è un tetto prefissato alla massa monetaria totale. Questo fa sì che il bitcoin tenda a crescere di valore nel tempo, una tendenza alla deflazione che limita l'utilità di questa moneta è che altre monete matematiche basate su algoritmi diversi non avrebbero. Intanto il Bitcoin è studiatissimo, come ha raccontato Hervé Falciani ai microfoni di Radio 24, dagli istituti bancari dei paradisi fiscali. Questo perché consentirebbe di tagliare gli intermediari. Tutt'altra invece la storia di M-Pesa, moneta virtuale creata in Kenya dalla compagnia telefonica Vodafone, che oggi conta decine di milioni di utenti in Africa e in India, che recentemente è sbarcata anche nell'est Europa. Basta un telefonino, anche di vecchia generazione, per poter depositare piccole cifre ed eseguire pagamenti di ogni tipo, dalla bolletta al fruttivendolo. I costi di transazione sono bassissimi e non si passa per il sistema bancario, mentre una rete di migliaia di agenti sul territorio, composta per lo più da normali negozianti, garantisce il cambio da M-Pesa alla valuta locale e viceversa. In generale, l'adozione di questi strumenti monetari avanzati è molto più rapida nei paesi poveri e in via di sviluppo. Il perché ce lo spiega ancora una volta Geronimo Emili di Cashless Way. Sentiamo. In questo caso bisognerebbe tirare in ballo il discorso dell'inclusione finanziaria. Il punto è, noi stiamo parlando di un mercato fatto di persone che non hanno conto in banca. E l'unico strumento che posseggono è il telefono, il cellulare, lo smartphone, che è ovunque in Africa, per esempio. Che è ovunque, ma parliamo anche di cellulari di vecchia generazione, che hanno tecnologia solo SMS. A questo punto, dei soggetti che non possono o ancora non hanno un conto in banca devono ingegnarsi. E probabilmente non ce l'avrebbero, perché bisogna capire che le banche difficilmente trovano conveniente gestire un conto sul quale poi sono depositati pochi dollari o pochi euro. No? Esatto. Però hanno capito, anche le banche stanno cominciando a capire, che esiste un bacino di utenti che devono trasferire spesso valore. Proviamo a pensare a tutti gli extracomunitari che lavorano in Europa, certo, che quotidianamente mandano anche delle piccole cifre a casa, parliamo di 50 euro. Queste persone fino ad oggi erano costrette a avvalersi di quei servizi di money transfer che chiedono delle commissioni altissime. Oggi possono farlo o con le nuove tecnologie o anche con le criptovalute come il Bitcoin, e sono proprio loro a fidarsi per primi di queste nuove tecnologie perché funzionano molto bene. Che cosa fanno esattamente in questi casi? Per esempio, esiste una società americana che si chiama Robocoin, che ha introdotto nel mondo dei bancomat che però, a fronte di cash o pagamento con carta, ti restituiscono Bitcoin e te lo restituiscono sotto forma di scontrino. C'è stata una seconda evoluzione di questa società attraverso un altro prodotto che loro chiamano Romit, e sostanzialmente funziona così: tu inserisci cash o carta di pagamento nel bancomat, lui trasforma quel valore in Bitcoin, lo trasferisce dall'altra parte del mondo, e dall'altra parte c'è qualcun altro che, infilando un codice, digitando un codice, ritira la valuta locale che è stata appena trasformata dal Bitcoin. Quindi che commissioni? Cosa, commissioni bassissime. Sì, ma alle spalle, dietro, c'è la nuova tecnologia del Bitcoin, però l'utente neanche la vede, perché l'utente A infila denaro nella macchina e l'utente B ritira il denaro dalla macchina. Insomma, il nostro futuro finanziario potrebbe essere popolato da un mix di valute in competizione fra loro. Probabilmente alcune di esse saranno valute virtuali come M-Pesa o criptovalute come Bitcoin. I governi delle banche centrali dovranno fare i conti con monete a cui non corrisponde né uno Stato né un'altra banca, ma che rispondono solo alle leggi della matematica. E se tutto ciò non dovesse bastare, c'è chi sta lavorando a una terza via. Sentite. Oggi un qualsiasi pagamento elettronico corrisponde ad una modifica nelle scritture contabili su due conti correnti, quello di chi paga e quello di chi incassa. Roberto Giori, ex proprietario del gruppo De La Rue Giori, il quasi monopolista mondiale delle macchine per la stampa del denaro, ha invece elaborato un algoritmo che permette di digitalizzare il contante. Si tratta di un servizio diverso dai circa 200 sistemi di pagamento elettronico sviluppati negli ultimi 10 anni. Le banconote digitali, emesse dalla banca centrale, sono immateriali pur rimanendo numerate e tracciabili, e possono essere utilizzate dalla rete di operatori della telefonia mobile. Basta possedere un cellulare e diventa possibile spostare la banconota virtuale al destinatario. In tutto questo non c'è un passaggio fra i conti correnti. È come una transazione in contanti, solo che il portafoglio è il cellulare. L'Uruguay sta testando questa nuova moneta e, se tutto va bene, potrebbe metterla in circolazione in autunno. Ecuador e Bangladesh hanno reso legale l'emissione di banconote elettroniche e nelle Filippine il progetto è lo studio. Insomma, la moneta di Giori è, dal punto di vista della riservatezza delle transazioni, del tutto equivalente al contante, ma allo stesso tempo è immateriale, con tutti i benefici che ne conseguono. Certo, se è vero che l'euro è diventata la valuta di riferimento della criminalità organizzata internazionale perché un controvalore di $1 milione pesa solo 1,8 kg in banconote da 500, che cosa potrebbe accadere se una persona qualunque potesse trasportare contanti a piacere dentro il chip di un cellulare? Ci lasciamo con questa domanda, appuntamento a settimana prossima.